Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Buon termine di serata. Se ci ascoltate in replica alle 20:45, vi ricordo la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Oggi con particolare calore vi segnalo anche il mio blog Guardie o Ladri. Sapete che amo affrontare temi di economia criminale, di criminalità organizzata. Ciò che svolgo anche per il mio giornale e il filo rosso della legalità, come sapete, appartiene al DNA di questa trasmissione, direi anche di questa radio. Allora, ooggi è giovedì 16 luglio. Il 19 luglio del 1992, in via D'Amelio a Palermo, morì il giudice Paolo Borsellino e gli uomini della sua scorta. È un impegno civile il nostro, così come abbiamo fatto in occasione della strage di Capaci, dedicare due puntate a quel drammatico evento, sentendo dei personaggi particolari. L'uno è il fratello di Paolo Borsellino, Salvatore, che sentiremo domani. L'altro invece è Giulio Cavalli, un amico, una persona impegnata, un uomo di teatro che abbiamo già sentito lo scorso anno allorché portava per i teatri italiani Doubt Des, il suo spettacolo. E capiremo nel corso di questa puntata qual è il legame che c'è tra Giulio Cavalli e Palermo e la strage di via D'Amelio. Intanto però, prima di parlare con lui, ascoltiamo questo frammento. Oggi i boss stanno a 100 passi da Palazzo Marino, dove il sindaco di Milano Letizia Moratti lavora e prepara l'Expo 2015. O metti che li hanno già fatti quei 100 passi che li separano dal palazzo della politica e dall'amministrazione. Certo, hanno già provato a entrare nei municipi, a Milano e nell'Interland. Hanno già stretto buoni rapporti con gli uomini dei partiti. Milano è oggi la vera capitale dell''ndrangheta, assicura uno che se ne intende. Il magistrato calabrese Vincenzo Macri, direzione nazionale antimafia, uno che la fotografa tutti i giorni, questa edera omessa ma mai dimessa che sembra non si riesca mai a raccontare. Ma anche Cosa Nostra e Camorra si danno da fare sotto la Madonnina. E la politica non crede, non vede, non sente. E quando parla, parla ma nega. Quello che avete sentito era un frame tratto dallo spettacolo A 100 passi dal Duomo, Le mafie al nord, di Giulio Cavalli e del collega Gianni Barbacetto. Buongiorno Cavalli. Buongiorno a tutti. Per chi non lo sapesse, il teatro è denuncia sociale forte, tanto che Giulio Cavalli vive con una scorta perennemente perché è minacciato dalle mafie che vivono e prosperano al nord. Cavalli, forse non tutti lo sapranno questo, ecco, spiegaci come si vive da scortato al nord. Eh sì, infatti è la collocazione geografica, no? Che rende molto forse più desolante la vicenda, perché se è vero che esiste una tutela da parte delle forze dell'ordine e delle istituzioni, io non smetterò mai di ringraziare, e che credono che sia un mio diritto continuare a fare il mio lavoro, esiste poi una società civile che è quella che si vive quotidianamente nei gesti abituali, dal bersi un caffè o da andare al panettiere, che evidentemente si ritrova ad accogliere nel proprio territorio una persona minacciata da un problema che evidentemente non esiste o è comunque continuamente minimizzato dall'irresponsabilità culturale e politica di alcuni. Io ricordo ai radioascoltatori che se avranno voglia di andare a vedere il mio blog troveranno una storia straordinaria che racconto attraverso le parole di Modesto Verderio, consigliere leghista di Lonate Pozzolo, che nell'indifferenza totale della sua cittadinanza, anche di coloro che lo hanno votato, denuncia il fatto che l''ndrangheta sta per impossessarsi e ha già messo gli occhi su vastissime aree che ruotano intorno all'aeroporto di Malpensa. Allora, torniamo al nostro Giulio Cavalli. Allora, qual è il filo rosso che lega te e che lega il tuo spettacolo a Palermo, luogo tragico della morte di Paolo Borsellino e della sua scorta. Ma da lì è cominciata, diciamo, la mia storia, che poi mi ha portato questi risultati. A Palermo io ho il privilegio di avere tanti amici, persone che, a cui il problema mafioso non solo appartiene, ma è uno degli obiettivi della loro lotta, con mezzi diversi, che siano magistrati o che siano semplicemente gente impegnata e coordinata. Mi viene in mente Ingroia, mi viene in mente Salvatore Borsellino, ma anche Giovanni Impastato e moltissimi altri. E Palermo, io questa è una frase che uso spesso, è poi la città che mi ricarica, perché è la città dove la battaglia che ha stuprato la tranquillità della mia vita, in realtà non solo è riconosciuta, ma è appoggiata in tutte le sue forme. Io vorrei con te fare un parallelo. Allora, il consigliere Modesto Verderio denunciava con forza una cosa che a me ha scandalizzato. Ha detto: i giovani di questa città, nella ricca provincia di Varese, dovrebbero prendere esempio dai giovani calabresi, dai giovani palermitani, che manifestano, scendono in piazza per dire basta la mafia, basta Cosa Nostra, basta all'Andrangheta. Qui a Lonate Pozzolo non accade. Allora ti chiedo, dal tuo osservatorio particolare, tu sei giovane, anche più giovane di me, qual è la reazione dei giovani, che è il futuro di questo benedetto, maledetto paese, che tu noti in Lombardia, e se noti delle differenze ovviamente con le altre regioni italiane? Io sono d'accordissimo con questa frase di Verderio, perché il problema principale è che noi qui siamo in una fase di alfabetizzazione, e forse avremo bisogno di importare dalle regioni del sud non solo i simboli, ma quelle persone molto più umili, che molto più silenziosamente, con dei fatti concreti, che possono essere l'apertura di un pizzo free o le più di 100 denunce degli industriali nella città di Gela, che con dei gesti molto concreti, no, cercano di portare avanti un progetto di legalità. Rita Atria diceva una frase che io trovo meravigliosa. Dice: prima di tutto bisogna sconfiggere la mafia che c'è dentro di noi, poi sui nostri familiari più stretti, sui nostri amici, e solo allora saremo preparati, avremo la forma mentale che ci serve, no, per cercare di regionalizzare la nostra battaglia e coordinarci. Assolutamente. Però io sono anche ottimista, dico la verità, Roberto, perché scopro che gente, che questa opera di alfabetizzazione la sta portando avanti anche qui, e soprattutto ragazzi giovani che hanno voglia che gli venga svelato questa favola che sembra che sia irraccontabile per convenienze economiche e politiche, in realtà ne trovo. Torniamo e rimaniamo sul tema dei giovani, perché ripeto, soltanto attraverso un esercito di professori, un esercito di insegnanti sarà possibile sconfiggere la mafia, e non è questo qui un giudizio mio. Vorrei rimanere su questo tema chiedendoti: ma tu nelle scuole giri, nelle scuole vai, hai contatti con i ragazzi e con i professori, li trovi pronti e preparati? Non dico soltanto i giovani, ma mi riferisco soprattutto ai professori. C'è un sensibilità, e mi capita spesso di andare. Tieni conto che noi artigiani, no, della legalità, ci sei anche tu in questo sottogruppo, in realtà qui siamo sempre gli allarmisti, no? Per cui diventiamo, nel momento in cui irrompiamo, ma non irrompiamo con la forza dei contenuti che cerchiamo di portare avanti, diventiamo quasi sempre un problema, soprattutto per gli amministratori, perché probabilmente chiediamo a tutti di smetterla di preoccuparsi di amministrare, di cominciare invece a prendere una posizione su alcuni argomenti. Certamente, no? Certamente. Ti confesso, tra l'altro, che proprio qui a Lodi, ad esempio, una delle frasi che vedo invece va a colpire in modo assolutamente trasversale e eterogeneo diversi pubblici che davanti, è quando racconto della famiglia gelese di Rinzivillo, che è proprio a Lodi, Crema, nella zona di Cremona, lo dice l'inchiesta Tagli Pregiati, ha imposto a noi lodigiani di mangiare carne marcia dentro supermercati con degli atti di intimidazione, per cui è riuscito a controllare, ecco, il mercato. Probabilmente con questi esempi si riesce a far capire molto meglio cosa vuol dire la penetrazione delle mafie anche al nord. La frase che dicevo prima dell'esercito di formatori in grado di sconfiggere la mafia non è mia, è di Gesualdo Bufalino, scrittore di Comiso, tra le più alte espressioni intellettuali che ha avuto la Sicilia. Quindi non mi sono appropriato di un concetto mio, ma è un concetto di un grande uomo di questa terra. Dove sei adesso, Giulio, con il tuo spettacolo? Adesso siamo fermi perché sto preparando un libro, anche se in realtà è uno stop sempre molto dinamico, perché sto preparando insieme a Libera Campania ai ragazzi di Casal di Principe un intervento teatrale, drammaturgico sulla figura di Don Peppe Diana e su questa enclave in cui sembra che ancora non si riesca nemmeno a pronunciare la parola camorra. Assolutamente questo, sì, purtroppo. Questo lavoro in via D'Amelio, che è uno dei lavori che io collego sempre a questa memoria attiva, e quindi non questa memoria di polistirolo che continuano a propinarci in prima serata, tra l'altro con delle perversioni culturali di miti negativi che trovo devastanti per una nazione civile, e quindi penso sicuramente che poi anche il lavoro di Borsellino avrà una mini tournée, diciamo, in Sicilia, da Terrasini a Cinisi probabilmente, per cui stiamo già raccogliendo. Bene, io invito tutti a visitare il sito, che è giuliocavalli.net, molto semplice da ricordare. Grazie a Giulio per il suo intervento. Io dico grazie in regia a Filippo Regi, in studio Laura Faggin, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Una Busa al Giorno. Saremo ancora nel ricordo della strage di via D'Amelio. Buona giornata a tutti.